Quest'oggi nel Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea si discuterà anche della questione dei migranti e delle tensioni che si registrano a livello europeo tra Italia e Francia, ma non solo, proprio per la politica iniziata subito dal governo italiano nei confronti dei naufraghi e delle navi delle ONG. Ma noi abbiamo la testimonianza di un fotografo che è cremonese ma sta a distanza a Bologna, che era a bordo della Humanity One, la nave di SOS Humanity, una di quelle coinvolte in questa vicenda. È Max Cavallari al telefono con noi. Buongiorno Max. Buongiorno a tutti e tutte. Allora, tu hai partecipato a questa missione, ti chiedo di raccontarci come è iniziata, perché poi avete effettuato, se non sbaglio, 3 salvataggi. Sì, esatto, i rescue sono stati 3 salvataggi dal 22, nell'arco del 22 e il 24 di ottobre. Un primo salvataggio è avvenuto la notte del 22 ottobre e 2 salvataggi complessivi avvenuti nel primo pomeriggio e la sera del 24, per un totale di 179 persone. 179 persone che poi volevate portare, come prescrive ovviamente il diritto internazionale, nel primo porto sicuro. E lì sono cominciati i problemi. Esattamente, da lì il momento della richiesta di porto sicuro è stata fatta subito all'inizio, nel primo, appena avvenuto il primo salvataggio. C'è da dire che da anni ormai la condizione della richiesta del porto sicuro è parte integrante della missione, quindi viene considerata una settimana almeno che viene tolta alla missione di cosiddetta di search and rescue nel mare Mediterraneo per poter iniziare la ricerca del porto sicuro. Il porto sicuro viene richiesta al porto più vicino, ai porti più vicini, e quindi il primo più sicuro, diciamo, anche se nell'effettivo non lo è quello di Malta. Malta viene categoricamente ogni volta ignorata la richiesta di porto sicuro, quindi si passa direttamente all'Italia. Noi abbiamo fatto 18 richieste di porto sicuro. C'è stata data risposta solamente dopo una decina di giorni, adesso non ricordo esattamente il numero esatto di giorni. Circa una decina di giorni con persone a bordo, in che condizioni si trovavano? Beh, le persone soffrivano sicuramente di grandissimi problemi psicologici causati principalmente dal fatto di dover essere messi nelle condizioni di partire in nave in condizioni assolutamente precarie. Alcuni di loro hanno riportato, anche se ovviamente, purtroppo ovviamente, di tortura, dico ovviamente perché appunto sono già riscontrati da anni prove di casi di torture in Libia e nelle zone in cui avvengono la maggior parte delle partenze, quindi danni psicologici, danni fisici e ovviamente di salute dovuti a condizioni appunto precarie di partenza. Ricordiamo sempre che sono persone stipate in differenti barche che comunque non permettono una navigazione sicura con i numeri con cui partono. In un tuo reportage pubblicato dall'Espresso tu riporti anche il fatto che un migrante, come dire, preoccupato ti ha chiesto se non ripartavate in Libia, quindi la Libia rimane un posto dove subiscono torture e dove vengono meno i loro diritti. Beh, questo ormai è più che chiaro ed è più che evidente. Il problema è che le informazioni, i report che sia l'ONG ma che anche le testimonianze da parte della Guardia Costiera, delle persone che vengono salvate anche dalla Guardia Costiera, riportano ormai da anni i trattamenti in Libia e le gestioni delle tratte date anche da compromessi dati dalla cosiddetta Guardia Costiera libica sono all'ordine del giorno, sono chiari come il sole e purtroppo noi ne siamo oltre che consapevoli anche coinvolti. Infatti è stato rinnovato da poco il memorandum con la Libia, che tra l'altro in modo indiretto finanzia anche questi centri. Torniamo un attimo appunto alla navigazione. Avete fatto 18 richieste, dicevi, di porto sicuro, poi alla fine qualcuno va risposto. Dopo una serie di grandi richieste, quando si cominciava ad avere anche un'attenzione mediatica in cui c'erano ben 4 navi ONG in mare aperto, cariche di persone ormai soccorse da giorni, diciamo che la pressione mediatica ha anche fatto il suo lavoro, quindi da lì c'è stata la richiesta di porto sicuro con la specifica che sarebbero stati sbarcati solamente le donne e le persone fragili. Da lì definire la fragilità abbiamo visto come è stata poi gestita nei giorni successivi, quindi con una vera e propria selezione all'ingresso, di cui poi le persone che, come ha detto ad esempio Silvia, la nostra il nostro medico di bordo, sono state ritenute troppo sane per poter sbarcare. Quindi la condizione di salute data da uno stato di, in qualche modo, non si può assolutamente definire di benessere, si può parlare di persone guarite, perché comunque quando le persone sono state soccorse, io parlo ovviamente della mia missione poi, ma penso che la situazione sia molto simile in tutte le altre navi, quando sono arrivati riportavano traumi, riportavano ferite, riportavano tutta una serie di complicanze a livello di salute che giustamente sono state guarite dal nostro team medico. E il momento in cui c'è stata poi la richiesta di controllo da parte del Ministero della Sanità, è stato detto alla dottoressa che, essendo guarite queste ferite, non c'era motivo per cui queste persone fossero ritenute fragili e quindi in condizioni necessarie per lo sbarco. E questo crea un buco incredibile, perché non viene minimamente considerato il danno psicologico che anche solamente un viaggio del genere, perché noi consideriamo questo viaggio in mare, ma non consideriamo assolutamente tutto quello che viene prima, tutta la comunità del Gambia, che è quella che diciamo abbiamo avuto più testimonianze dal punto di vista di torture in Libia, hanno raccontato delle storie che purtroppo non sono nuove, ma sono sempre presenti. Proprio su questo, sullo sbarco selettivo, questa modalità che si è inventata il governo, una volta sbarcati poi il ministro ha emanato un decreto che vi chiedeva di tenere il carico residuale, anche qui definizione insomma di esseri umani abbastanza curiosa, per usare un eufemismo, e vi chiedeva di lasciare il porto, ma a quel punto avreste compiuto un respingimento che è vietato dalla legge internazionale e vi siete opposti. Sì, sarebbe contrario alla Convenzione di Ginevra, sarebbe contrario a qualsiasi pensiero sui diritti umani in generale e anche a tutta una serie di leggi governative e umanitarie. Il nostro capitano ha deciso di non partire subito dopo il primo disimbarco, perché questo avrebbe creato un problema in nave che avrebbe messo a repentaglio l'equipaggio e soprattutto le persone soccorse che si sarebbero viste la terra sotto i piedi e poi tolta dopo neanche il disembarco, appunto per le questioni di cui abbiamo detto prima. Quindi sì, una gestione, posso utilizzare un termine già utilizzato in un altro contesto, una gestione imbarazzante di persone che sono state in nave per una decina di giorni. Infatti volevo proprio chiederti qual era l'umore, qual era lo stato d'animo delle persone scartate da questa selezione. Beh, il disembarco è durato più o meno tutta la notte e poi tutta la mattina. Nessuno sapeva fino all'ultimo, equipaggio compreso, se sarebbero scesi tutti, se alcuni fossero rimasti in nave e quanti ne sarebbero rimasti. Quando ormai era evidente che una decina, che poi sono diventate una trentina di persone, non erano sufficientemente malate, non sufficientemente fragili per scendere, lì c'è stato un momento che credo rimarrà impresso per un bel po' di tempo, perché c'è stato uno sconforto e sminuire è un sentimento che in quel momento invadeva tutti e tutte all'interno dell'equipaggio e persone soccorse comprese, indistintamente, senza nessun tipo di distinzione. C'è stato un momento in cui il tempo si è fermato completamente, perché da lì a capire cosa sarebbe successo poi ci è voluto un giorno intero e anche un momento di riposo, perché diciamo l'equipaggio non dormiva da almeno una giornata intera e alcuni come medici, io ho seguito tutta la questione, ma anche tutto il care team, abbiamo fatto più di una giornata senza dormire e questo ovviamente annebbiava anche tutta una serie di pensieri. Poi anche queste 35 persone sono state fatte scendere. Io ti vorrei fare un'ultima domanda invece sul tuo lavoro specifico: quanto è importante che ci sia chi può testimoniare, che ci siano fotografi, che ci siano giornalisti a seguire queste vicende? La testimonianza secondo me è sempre fondamentale in tutte le forme. Io ho potuto vivere l'esperienza, un'esperienza diversa da quella che è stata fatta finora o comunque nella maggior parte dei casi, dove giornalisti e giornaliste vivono una parte di esperienza nella nave, quindi non vivono tutta la missione, non fanno parte dell'equipaggio in sé. Io ho avuto la fortuna che mi è stata fatta questa richiesta di far parte comunque integrante dell'equipaggio, quindi la fotografia per me è stata una parte di tutta questa esperienza e grazie a quello ho potuto vivere anche quello che è tutto il resto, nel senso anche tutti i report che sono stati fatti dai medici. C'è stata una prima esperienza in cui è stato invitato anche uno psicologo dedicato solo ed esclusivamente alla gestione, alle persone, veniva chiesto alle persone di venire a parlare dei propri problemi in nave, delle proprie esperienze in nave, e questo sembra essere comunque un'azione non presente o comunque poco presente in passato. Tutte queste testimonianze, quindi dalla fotografia al testo del communication officer a bordo ai report che sono stati fatti dai medici, tutte queste testimonianze sono sempre e comunque fondamentali, perché abbassare la guardia è un attimo purtroppo, e quindi ovviamente è necessario e fondamentale. Io Max ti ringrazio, sperando di non dover più raccogliere testimonianze di questo tipo, perché magari sperando che cambino le politiche nei confronti delle migrazioni, ma insomma delle persone che rischiano di morire nel Mediterraneo. Intanto grazie mille. Grazie mille a voi, grazie mille a tutti e a tutte che continuano a interessarsi alla causa.